porto dove andare non ce l'hai. Ubriaco e raccorai contro la tua città. Non ti capisce mai nessuno, neanche quel fottuto primo cittadino. La tua vendetta l'avrai, di lottare non ci stancheremo mai. No, mai! Trans, trans, vai dentro. La tua vendetta l'avrai, di lottare.